gioco della verità. C'era una volta un ragazzo di nome Mama Nana. Era il più grande guerriero nella foresta e tutti parlavano e cantavano del suo coraggio. Chi è il più grande essere vivente nel mondo? Mama Nana. L'onesto, il più nobile e più saggio di tutti? Mama Nana. Ehi, chi è il più grande essere vivente nel mondo? L'onesto, il più nobile e il più saggio di tutti? Se lo vedi arrivare è meglio per te andare? Mama Nana. Il re della giungla. Il re. L'unico re della giungla. Il re. L'unico re della giungla. Il re. L'unico re della giungla. Il re. L'unico re della giungla. Svegliati. Il re. Svegliati. Cosa? Tirati su, pigrone. Andiamo a caccia dello smeraldo. Non di nuovo? Sono stanco di essere una scimmia, va bene? Devo invertire questo incantesimo. E per questo ora abbiamo bisogno dello smeraldo. E così, ancora una volta, come ogni giorno, Freddy e Mama Nana si inoltrarono nel cuore della foresta per trovare lo smeraldo. Continuarono finché Mama Nana non fu stanco. Fratello, non potremmo riposare per un pochino? Ma dobbiamo andare avanti prima che il sole tramonti. Fratello, per favore, per un pochino. Va bene. Mentre i due si sedevano per riposare, improvvisamente sentirono ruggire. Era un drago! Un essere umano nel mio territorio? Corri, fratello, corri! Detto questo, Freddy corse e scomparve dietro gli alberi. Mamma Nana rimase seduto lì, sbalordito. Per favore, non farmi del male. Il drago tirò indietro la testa, divertita. Farti del male? Perché dovrei ferirti? Quindi solo perché sono un drago? Hai pensato che avrei... Oh, no, non intendevo. Smettila, non mi interessa. Dimmi, cosa stai facendo nel mio territorio? E perché la scimmia ti ha chiamato fratello? E perché ha quella benda sull'occhio? Lunga storia. Ho tempo. La scimmia è mio fratello Freddy. Un giorno, un eremita venne a casa nostra per chiedere del cibo. Ero fuori nei boschi a raccogliere legna per il fuoco. Mio fratello aveva conservato una mela rossa e succosa per sé e stava per mangiarla quando l'eremita bussò alla porta. Oh, gentile ragazzo, ho molta fame. Potresti darmi qualcosa da mangiare, per favore? Mio fratello voleva aiutare l'eremita, ma il pensiero di regalare la mela lo rese triste. Mi dispiace, signore, ma non ho alcun cibo. Vorrei poterti aiutare. L'eremita aveva un forte senso dell'olfatto. Nel momento in cui Freddy aveva aperto la porta, sapeva che c'era una mela. Mi hai mentito? Hai una mela? Non ce l'ho. Più bugie! Ti ordino di diventare una scimmia! E con ciò si trasformò in una scimmia. Quando sono tornato con i tronchi, ho trovato una scimmia nella mia casa che piangeva e stava per scacciarla via. Ma poi mi ha parlato, ho lasciato cadere i tronchi e sono corso a cercare l'eremita. Quando l'ho trovato, l'ho implorato di annullare l'incantesimo. Hai qualcosa da mangiare? Sì, ho un pezzettino di formaggio. L'ho dato all'eremita, ma non l'ha preso. Mi ha sorriso. Sembri essere onesto. Mi piace. Sai cosa? Nelle profondità della foresta c'è uno smeraldo che può essere localizzato solo durante il giorno nella sua forma più vera. E solo dalla persona che non ha mai mentito. Se riesci a trovarlo, allora avrai trovato il modo di annullare l'incantesimo. Devi solo ascoltare lo smeraldo. E poi è scomparso. E da allora io e mio fratello partiamo la mattina alla ricerca dello smeraldo e torniamo indietro prima del tramonto. E la benda sull'occhio? Dice che sembra bello. Ah, ha così torto. Lo so, spero solo di trovare presto lo smeraldo. Sono passati mesi e non l'abbiamo ancora trovato. Fino ad ora. Cosa intendi? Improvvisamente una luce brillante circondò il drago mentre particelle magiche scintillavano attorno a lei. Io sono lo smeraldo! Freddy, che cercava di vedere cosa stesse succedendo da dietro i cespugli, poté vedere solo una luce gialla brillante. Che cosa sta succedendo? Mamma Nana si sedette sul drago e subito volò via. Freddy vide scomparire la luce gialla ed uscì fuori. Dov'è mio fratello? Oh no! Quel drago deve averlo portato via! Tello! Mamma Nana sorvolò il grande fiume e si avvicinò ad un palazzo. Atterrarono a distanza e il drago disse: questo è il palazzo di Re Hammer. Oh, ne ho sentito parlare. L'intera foresta appartiene a lui. Sì, e non solo la foresta, il suo regno si estende per continenti. Wow, ma perché siamo venuti qui? Tuo fratello! Il drago spiegò a mamma Nana tutto sul pomposo Re Hammer e sulla sua ossessione di giocare al gioco della verità. Ha catturato le fate a cui effettivamente apparteneva la foresta. Se riesci in qualche modo a sconfiggere il re al suo gioco e a liberare le fate, ti aiuteranno ad annullare l'incantesimo di tuo fratello e la foresta tornerà ad essere un posto felice. Ecco, prendi questo corno di rubino, mettilo in gioco con il re. Lo vorrà sicuramente. Mamma Nana annuì ed entrò nel palazzo. Quando le guardie del re gli raccontarono di un ragazzo venuto a giocare al gioco della verità, con un corno di rubino scintillante, il re fu felice. Sembra che sia il mio giorno fortunato. Una preda è arrivata direttamente da me. Quando mamma Nana fu presentato di fronte al re, questo fu felice di vedere il corno di rubino. Immediatamente gli spiegò le regole. Va bene, ragazzo, ricorda la regola. Dire la verità non importa a quale costo. Oh, e c'è un'altra regola. Non offendermi. Non importa a quale costo. Questo è tutto. Se vinco, prendo quel tuo corno di rubino. E cosa vorresti se tu, lo sai, vincessi? Vorrei che le fate della foresta venissero liberate insieme alla loro foresta. Il re era furioso per questo, ma si calmò pensando che non c'era alcun modo in cui mamma Nana potesse vincere. Va bene, allora cominciamo. Appoggia il palmo della mano sulla sfera e rispondi alla mia domanda. Se dirai la verità, si illuminerà di blu. In caso contrario, di rosso. Mamma Nana annuì. Sono io l'uomo più bello del mondo? Mamma Nana sussurrò qualcosa e poi disse: sì. La sfera divenne blu. Il re Hammer fu piacevolmente sorpreso. I ministri però rimasero scioccati. Veramente? Ok. Pensi che io sia il più gentile di tutti? Ancora una volta, mamma Nana sussurrò qualcosa e poi disse: sì. La sfera brillò di blu e il re ne fu impressionato, anche se, nel profondo, stava cominciando a preoccuparsi. Va bene, l'ultima domanda. Sei venuto qui con una intenzione segreta? Mamma Nana sorrise e disse: no! e presto la sfera brillò di nuovo di blu. Le tue tre domande sono finite, ed ora è il mio turno, ed io ho solo una domanda. Ami i tuoi sudditi? Il re fu sorpreso. Non era mai successo che qualcuno avesse avuto la possibilità di fargli la domanda nel gioco della verità, perché perdevano sempre tutti all'inizio. Sì. La sfera divenne rossa. E lo stesso fece la faccia del re imbarazzato. I ministri rimasero scioccati. Abbassando la faccia, ordinò alle guardie di liberare gli angeli della foresta e ridare loro il loro territorio. Si alzò quindi e lasciò la sala. Mamma Nana era felice. Quando uscì con le fate, il drago disse: «Ben fatto, mamma Nana! Ma dimmi, come hai fatto a far diventare la sfera di colore blu quando veramente... non stavi dicendo la verità?» «Beh, non ho mai mentito. Per la prima domanda ho sussurrato sottovoce: per tua madre. Per la seconda domanda: di tutti i re del tuo regno. Sai, perché lui è l'unico re del suo regno.» «Wow, ma per quanto riguarda l'ultima domanda, tu avevi un'intenzione segreta?» «Non l'avevo. La mia intenzione era di liberare le fate, cosa che ho detto immediatamente dall'inizio del gioco al re.» Il drago sorrise e anche le fate ne furono molto colpite. Quando raggiunsero la foresta, l'intera giungla si rallegrò al ritorno delle fate. Le fate riportarono Freddy nella sua forma umana. Freddy promise di non mentire mai più. Le fate annunciarono che Mamma Nana sarebbe diventato il nuovo re della giungla. Era molto felice, perché era quello che aveva sempre desiderato: vivere nella giungla e prendersi cura della natura. E attraverso la sua saggezza e verità, Mamma Nana divenne ciò che aveva sempre desiderato essere. Ehi, chi è il più grande servivente del mondo? Non è sto più nobile e più saggio di tutti? Se lo vedi arrivare, meglio per te andare. Mamma Nana, il re della giungla. Il re, l'unico re della giungla. Il re, l'unico re della giungla. Il re, l'unico re della giungla. Il re, l'unico re della giungla.